le donne cavalier, l'arme e gli amori, le cortesie, l'audaci imprese io canto, che furo al tempo, che passaro i mori, d'Africa il mare e in Francia non quel tanto. Io dirò d'Orlando, dirò in un medesimo tratto, cose non dette in prosa mai, cose mai sentite in rima, che per amor venne in furore matto, d'un che si saggio era stimato prima. Accadde per amore, cosa fece del suo onore, che per amor venne in furore matto, d'un che si saggio era stimato prima. Io dirò d'Orlando che per furor divenne